situazione è peggiorata, perché prima bombardava Gheddafi, pare, no? E adesso bombarda anche Sarkozy. Quindi i poveri libici hanno peggiorato la loro condizione. E appunto sul ruolo della Francia, cosa ne pensa? E la Francia lo fa per due ragioni. Una, che Sarkozy sotto campagna elettorale vuole cercare di diventare, come dire, un eroe internazionale e guadagnare voti, e di seguito c'è una speculazione. Ed è brutto che si faccia una guerra perché un tipo come Sarkozy vuole guadagnare voti. E l'altra questione, poi più di sostanza, è, insomma, non si può tacere del petrolio. Il petrolio è interessante e bisogna pensare, per esempio, voglio dire, che in Libia attualmente, adesso non so se sono scappati, c'erano 36.000 cinesi, e quindi il rischio che il petrolio passasse ai cinesi c'era. Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, sono partiti i primi Tornado, quindi è iniziata ufficialmente la partecipazione attiva del nostro paese in questa guerra. Cosa ne pensa? Ne penso male. Non bisogna dimenticare che 100 anni fa, nel 1911, noi abbiamo fatto l'invasione della Libia, della Tripolitania, e abbiamo fatto massacri. Tornare dopo 100 anni con i mitra, con i cannoni, con gli aeroplani, non è una bella storia. Cosa vede per il futuro? Quali potrebbero essere i rischi? È difficile, perché è una situazione molto, molto complicata, molto incasinata. Cioè, ci sarà un cambiamento in Libia, certamente, ma non è dato da prevedere oggi in modo chiaro. Ritornando alle questioni italiane, c'è uno scollamento che sembra abbastanza evidente tra il Partito Democratico da un lato e la sinistra radicale dall'altro. Il Partito Democratico ha preso una posizione assurda, secondo me, perché, voglio dire, mai sostenere una guerra, però è la stessa posizione assurda che hanno preso ai tempi del Kosovo. Perché dice assurda? Perché non si fanno le guerre, insomma, non si interviene in guerra. Tradisce le sue origini di sinistra? Sì, tradisce le sue origini di sinistra, voglio dire che le ha dimenticate, non le tradisce più perché le ha completamente dimenticate, e cerca di fare una politica di piccolo cabotaggio, di opportunismo, di dire bene così, adesso noi siamo, come dire, con l'intervento patriottico, queste cose qui, insomma, un po' inutili.